Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio, l'ultima puntata della settimana, una puntata che dedichiamo ad un esame dei mercati finanziari. Non è che ci aspettassimo nulla di diverso, ma come vi abbiamo raccontato in lungo e largo, l'inizio dell'anno per i mercati è stato decisamente molto movimentato. In particolare l'attesa era concentrata sui primi appuntamenti del mercato obbligazionario, visti i timori per il futuro dell'euro e le tensioni sui debiti sovrani dei paesi dell'Unione Europea. C'è stata grande attenzione sui risultati delle prime aste dell'anno nei principali paesi. La preoccupazione poi è cresciuta ulteriormente con il declassamento venerdì scorso da parte di Standard & Poor's del rating del giudizio sul merito appunto del debito sovrano di molti paesi europei, fra cui Francia che ha perso la tripla A, così come è successo all'Austria, all'Italia che è finita addirittura in area B e Spagna. Nonostante il giudizio dell'agenzia però, per esempio nelle aste di ieri, le prime dopo il declassamento, Parigi e Madrid hanno collocato con successo le loro obbligazioni e i rendimenti, come è successo anche alle ultime aste del Tesoro italiano, sono in discesa. Chissà se questa tendenza sarà duratura. Oggi a Salva Danaio cerchiamo di dare qualche suggerimento sui movimenti del mercato dei titoli di Stato e qualche suggerimento su come investire in questo settore in un momento che, nonostante le previsioni, potrebbe rivelarsi più tranquillo rispetto ai mesi scorsi. Sarà così? C'è questa convinzione fra gli operatori, sia fra i gestori dei portafogli obbligazionari, sia tra chi invece deve suggerire direttamente come comportarsi agli risparmiatori, agli investitori? Allora stamattina con noi Francesca Cerminara, gestore dei fondi obbligazionari di Zenith SGR. Dottoressa Cerminara, buongiorno, buon anno. Buongiorno. Ribadisco ancora la regola, fino a fine gennaio mi sento autorizzata ad augurare buon anno a tutti, dopodiché, come ripeto, dal primo febbraio smetterò in questa abitudine. Buon anno e benvenuto anche a Saverio Scelz, amministratore delegato di Copernicus SIM. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come sapete, vi dovete mettere a disposizione dei nostri ascoltatori, che possono chiamarci per intervenire in diretta all'800 24 0024. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Siamo anche su Facebook, abbiamo un nostro profilo salvadanaio-radio24 e siete sempre di più, 1039 in questo momento, da ieri insomma siete cresciuti tantissimo. La borsa, parleremo di mercato obbligazionario fondamentalmente, però daremo un'occhiata anche a quello azionario, perché anche qua i movimenti non mancano dopo i rialzi molto consistenti di ieri che hanno riguardato soprattutto Milano, dove chiaramente quando volano le banche permettono all'intero listino di incassare molti punti. Oggi c'è un freno, ma probabilmente c'è anche un po' di prese di posizione, prese di profitto dopo i rialzi di ieri, una seduta, chiamiamola anche un po' di consolidamento dei progressi degli ultimi giorni. Parigi e Francoforte scendono dello 0,5%, come Milano, Londra sulla parità, Londra ormai da settimana ha deciso di andare completamente per conto suo in ogni senso, politico e finanziario, e quindi anche oggi insomma ne mostra una tendenza un po' diversa rispetto alle altre piazze. Ieri è andata bene anche Wall Street, incoraggiata anche dalle molte trimestrali che stanno arrivando. Non sono andate tutte benissimo, ma in gran parte hanno sorpreso positivamente le attese del mercato. Non è andata bene quella di Google, che ha deluso appunto le stime degli analisti sui profitti e sul giro d'affari. Nella sessione after hours il titolo ha perso circa il 10%, vedremo oggi come aprirà nella sessione ordinaria di Wall Street. Ci sono stati risultati di Microsoft che sono stati migliori delle previsioni, quelli di Intel, il colosso americano dei microchip, che ha registrato un modesto aumento dell'utile nel quarto trimestre, ma ha comunque battuto le previsioni degli analisti. Ci sono stati risultati di IBM, i risultati di American Express ieri, e nelle ultime giornate appunto sono stati resi noti anche i risultati di Bank of America. Ieri soprattutto questi hanno fatto volare titoli bancari su scala internazionale, e insomma quindi i dati che arrivano dagli Stati Uniti ci appaiono incoraggianti su questo modesto segnale di ripresa dell'economia a stelle strisce, che speriamo ci contagi, anche se nell'eurozona avremo da affrontare invece problemi diversi ancora per un po' di tempo. A Milano, Monte dei Paschi più 8,27%, 23 centesimi. L'istituto senese ieri ha riunito il consiglio di amministrazione e c'è stato il via libera al piano per rafforzare il capitale per rafforzarsi patrimonialmente, secondo le richieste dell'EBA, l'autorità bancaria europea. Secondo l'EBA, Monte dei Paschi avrebbe bisogno di un rafforzamento patrimoniale di 3 miliardi e 200 milioni di euro. E non si procederà, non vi sto a raccontare tutte le modalità perché sono anche abbastanza complesse, con cui Monte dei Paschi appunto metterà a segno questa operazione, ma non si passa dall'aumento di capitale, e questo a quanto pare sembra essere stato l'elemento che ha stamattina riportato molti investitori sul titolo. Poi magari con Scelso facciamo anche un ragionamento sul settore bancario a Piazza Affari. Atlantia più 2,86, Parmalat in rialzo di un punto, abbondante con Intesa San Paolo, però non tutte le banche vanno bene perché tutte le altre invece sono in discesa e perdono oltre i due punti: Popolare dell'Emilia Romagna, Buzzi Unicem, il Banco Popolare, Unicredit. Peraltro si è appreso che la banca centrale libica non aderirà all'aumento di capitale. Mediobanca meno 1,92, Banca Popolare di Milano meno 1,91%. L'euro sul dollaro è intorno a 1,29. Siccome parliamo di mercato obbligazionario, oggi lo spread, che cosa fa? Il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e i titoli tedeschi sulla scadenza decennale sui 450 punti base. Accontentiamoci, va? Quantomeno ci siamo scrollati di dosso da qualche giorno i 500 punti. Allora, questa è la borsa stamattina. Noi però guardiamo un po' indietro alle giornate appunto che hanno animato le prime settimane dell'anno, per fare un punto sul mercato obbligazionario questa mattina, perché è un tema che interessa molti dei nostri ascoltatori, che si sono anche spaventati un po' negli ultimi mesi, da luglio in avanti, da quando abbiamo cominciato a mangiare pane e spread dalla mattina alla sera, da quando abbiamo cominciato a notare che il titolo obbligazionario, che il BOT, il BTP, i titoli di Stato italiani non erano più quel porto sicuro, quel rifugio sicuro per il proprio risparmio, ma hanno cominciato a comportarsi quasi come i titoli più scatenati dell'era della New Economy. Saverio Scelso, che cosa ha pervaso un po' nell'animo dei suoi investitori, delle persone che segue appunto quando li indirizza nelle scelte di investimento? Si sono spaventati molto rispetto a quello che è successo negli ultimi mesi, oppure è riuscito a tranquillizzarli, e come li tranquillizzava? Allora, diciamo subito una cosa: non c'è stata la fuga dal debito pubblico italiano da parte dei piccoli risparmiatori, cioè la gente che aveva investito nei titoli di Stato non è andata in banca a liquidare le sue posizioni, o comunque se l'ha fatto non l'ha fatto certo in maniera massiccia. Forte preoccupazione sì c'è stata, perché dalle comunicazioni dei media, dagli articoli sui giornali, dal passaparola fra i vari clienti, si temeva che da un momento all'altro lo Stato potesse fare default, parlo dello Stato italiano, potesse fare default, l'euro potesse andare in una crisi, entrare in una crisi irreversibile, e quindi la gente più che altro aveva bisogno di sentirsi in qualche modo rassicurata. Da un punto di vista del mercato obbligazionario ci sono state in quel momento e ci sono tuttora delle straordinarie opportunità, e qui bisogna capire se ci sono, qual è la visione che ognuno di noi ha. Se la visione è di tipo catastrofista, cioè l'euro sta per chiudere, beh, è bene sapere che non c'è un posto sicuro in nessuna parte del mondo, perché l'effetto sistemico e negativo del crollo del mercato dell'euro coinvolgerebbe praticamente tutte le economie mondiali. Se al contrario si pensa che questa può essere una crisi da cui si può riuscire a diventare ancora più forti, credo che chi oggi è compratore nell'area euro, e soprattutto di alcuni titoli che in quest'area effettivamente pagano un tasso di interesse molto molto elevato, credo si poggiano delle solide basi per guadagni futuri importanti senza eccessivi rischi. Dottoressa Cerminara, le chiedo un po' qual è la sensazione delle ultime ore. Il mercato si è tranquillizzato, anche se naturalmente ad ogni appuntamento con il panorama degli investitori internazionali, ad ogni asta guardiamo con fibrillazione quello che potrebbe accadere, soprattutto ovviamente guardiamo agli appuntamenti del Tesoro italiano, ma non è che non ci interessino anche le altre capitali. Ieri abbiamo puntato i riflettori sulla Francia e sulla Spagna, le aste sono andate bene. Poi ho una curiosità relativamente all'esito dell'asta francese, ma le chiedo qual è la vostra sensazione in termini generali: mercato un po' più tranquillo oppure qualche sorpresa prossimamente ce la dovremo aspettare? Questo glielo chiedo anche alla luce della reazione che complessivamente il mercato ha registrato rispetto alla drastica scure di Standard & Poor's che è arrivata venerdì scorso. Allora, sicuramente è stato un brutto colpo per l'Italia il downgrade di S&P. È vero appunto, come diceva lei, che non abbiamo avuto ripercussioni sullo spread o sui rendimenti, perché comunque già i rendimenti che vediamo ormai da mesi sui nostri titoli erano ben al di sopra dei rendimenti che in teoria il mercato prezza per un rating di livello A, come era considerata l'Italia. Quindi comunque il mercato aveva anticipato di fatto una mossa poi politica che ha scelto di fare S&P, quindi per quello non abbiamo avuto grandi ripercussioni, e poi perché obiettivamente ormai l'Europa e gli investitori europei sanno benissimo tutte le problematiche che stiamo vivendo, proprio perché non sono problematiche ormai conosciute soltanto dagli addetti al mestiere, ma sono problematiche che si sentono in qualsiasi telegiornale, quindi sono sulla comunque a conoscenza abbastanza di tutti, quindi non c'è più l'effetto panico dovuto dalla non conoscenza. Ormai molti problemi sono arrivati al pettine, li sono conosciuti, quindi li sappiamo e stiamo cercando di vedere che cosa la politica potrà fare per mettere veramente un serio rimedio a queste problematiche che sono veramente complesse. Per quello adesso sicuramente un po' di manovre sono state varate, un po' di aiuti politici sono stati elargiti, delle altre strategie politiche e economiche sono state messe in piedi da BCE e dal comunque i maggiori esponenti governativi dei paesi europei, quindi le idee ci sono, il mercato sta attendendo per vedere come saranno gli sviluppi pratici di queste idee. Dottoressa Cerminera, mi scusi, con lo spread a 4,50 avete evidenza di una banca centrale europea che ancora è attiva sui nostri titoli decennali sul mercato secondario, oppure anche la BCE in questo momento un po' più tranquilla e non deve soccorrerci quotidianamente? La banca centrale è comunque ancora decisamente un attore primario sui mercati, sui nostri ma anche su quelli spagnoli, sicuramente assolutamente compratrice di debito. Quindi no, perché ricordo fa parte del pacchetto che comunque del pacchetto diciamo europeo, il sostegno sui mercati certo secondari. Quindi è un pochino drogato ancora questo spread, non è ancora come dire l'atteggiamento della comunità finanziaria internazionale che ha portato a questo abbassamento, a questa tendenza verso il basso, questa soglia sotto i 500 è stata determinata anche dalla BCE che ancora continua a comprare. Scelso si voleva intervenire su questo, no? Non mi sembra un grande effetto di droga, no. Però perché ci sono tante banche centrali che come prestatori d'ultima istanza comunque intervengono, quindi alla fine se non lo volevo dire in termini negativi, comunque è condizionato, se le piace di più il sì, mercato sì. È un po' condizionato, ma come lo sono tutti quanti, cioè vorrei vedere se gli americani non intervenissero qualche volta sul loro mercato che fine farebbe il dollaro, cioè, o lo yen o altre valute. Infatti quantitative easing, adesso sì, dobbiamo cioè ritirare fuori parole complicate, però effettivamente questo è quanto è successo anche negli Stati Uniti. Allora ci dobbiamo già fermare perché abbiamo la prima pausa, comunque qualche base l'abbiamo gettata per il proseguimento della nostra conversazione su questo argomento. Anticipo già la domanda che vorrei fare dopo alla dottoressa Cerminera, perché ieri quando c'è stata l'asta francese, la Francia ha collocato 8 miliardi di titoli nella prima asta di bond a medio e lungo termine dopo il declassamento di Standard & Poor's, che è stato forse il più clamoroso perché come già preannunciato la Francia ha perso la AAA, la Francia voleva collocare sul mercato fra i 7,5 e 9 miliardi e mezzo di titoli, ne ha collocati 8. E allora, a fronte di questa cifra, ieri, in una prima battuta, le agenzie avevano reso noto che praticamente la Francia non era riuscita a collocare tutti i titoli, poi si sono chiariti i contorni della notizia. Di fatto non ha collocato la forchetta massima, pur avendo moltissime richieste da parte degli investitori. Mi chiedo allora che cosa succede nel dietro le quinte quando questo accade, perché appunto vi ribadisco, ieri questa circostanza aveva suscitato un po' di interrogativi da parte dei giornalisti, in particolar modo, che comunque sbagliano sempre, per cui sarà stata anche colpa nostra se la notizia è stata diffusa male. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, oggi facciamo un punto sull'andamento dei mercati finanziari con un focus particolarmente concentrato sull'andamento del mercato obbligazionario, la croce e la delizia degli investitori degli ultimi mesi, da quando il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e i titoli tedeschi sulla scadenza decennale è cominciato a divaricarsi così tanto, appunto lo spread. Abbiamo monitorato con grande attenzione quello che succedeva al nostro paese, soprattutto a questa asset di investimento che in passato ovviamente era tra le privilegiate, soprattutto dai piccoli risparmiatori italiani, e invece da qualche settimana abbiamo cominciato a prendere confidenza con il fatto che il BOT, il BTP erano diventati strumenti di investimento rischioso alla pari di tanti altri come le azioni, e quindi insomma molti investitori hanno cominciato a chiedersi quale fosse la miglior strategia per poter magari mantenere un investimento di questo tipo senza far rischiare troppo al proprio risparmio. E allora oggi facciamo un punto della situazione perché rimonitoriamo un po' quello che è successo sulle principali aste che si sono svolte dall'inizio dell'anno in Italia e in tutta Europa, e cercheremo di capire dove va il mercato, se si è tranquillizzato un po' di più rispetto alle settimane scorse, e adesso qual è anche, come dire, la strategia di investimento corretta per approcciarsi a questo mercato, se qualcuno magari negli ultimi mesi ha avuto la tentazione e l'ha concretizzata con delle scelte appunto di abbandonarlo. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Sono pronti tre ascoltatori, però avevo lanciato prima una domanda alla dottoressa Cerminara sull'esito dell'asta francese di ieri, che era sicuramente l'appuntamento più atteso dopo che Standard & Poor's ha privato la Francia della AAA, quindi del massimo grado di affidabilità. Dicevamo, ieri la Francia ha collocato 8 miliardi, aveva una forchetta complessiva tra i 7 miliardi e mezzo e 9 miliardi e mezzo, ne ha collocati 8 a metà strada. Qualcuno si è interrogato sul fatto che non abbia collocato la forchetta massima, e per qualcuno è stata anche una notizia negativa. Per la verità, mi spiegava Scelzo invece, che è stata addirittura una scelta coraggiosa. Sì. Coraggiosa in termini positivi, dottoressa Cerminara. Sì, è stata una scelta coraggiosa, perché l'idea di non emettere tutto quello che poteva emettere, nel senso che poi uno Stato decide in quella determinata asta quanti soldi al massimo vorrebbe ottenere, può anche decidere di ottenerne meno se reputa che il rendimento a cui deve offrire questi titoli possa migliorare fra qualche mese, nel senso che noi diciamo l'asta oggi ha questo rendimento qua, ma lo Stato lo si vincola per l'arco temporale in cui emette, se emette un 4 anni o un 5 anni, è un determinato tipo di rendimento che deve offrire al proprio investitore che gli compra il debito. Quindi è una scelta coraggiosa. Evidentemente la Francia avrà valutato che da qui alle prossime aste che anche lei ha schedulato, probabilmente il rendimento che dovrà offrire su titoli similari potrebbe ancora ridursi, quindi ha deciso di non vincolarsi con un rendimento, visto che probabilmente non aveva tutta quella necessità di coprire tutte quelle esigenze statali con tutto l'ammontare, quindi quello era un ammontare massimo in base alle esigenze che un governo stima di avere, però ha sempre dei margini di trattativa. Evidentemente ha reputato che il rendimento che doveva offrire adesso sul mercato potrà essere migliore fra qualche mese, quando si riaffaccerà nuovamente sul mercato. Una lettura molto interessante, Saverio Scelzo. Ecco, pensi che i titoli di Stato nel 2016 erano comunque scesi da 2,82 a 1,89, quindi l'aspettativa delle autorità francesi, pur registrando questo incredibile calo di un punto percentuale, quindi di fatto di un terzo, reputa con tutta probabilità una maggiore possibilità di guadagno per il futuro, vista dal punto di vista della Francia. Quindi pensate quanto è importante aver comprato a queste condizioni, con questi tassi, per chi ha già comprato. Scelzo, lei consiglia adesso ai suoi clienti di prendere qualche posizione sugli OAT, i decennali francesi, anche se hanno perso la AAA? Oppure ancora li continua ad indirizzare in Germania verso i Bund, che praticamente ormai grattano a terra e non rendono niente? Io per la verità sponsorizzo sempre molto di più i fondi comuni di investimento, le SICAV, perché ovviamente diversificano meglio, c'è una maggiore consapevolezza. Quindi è il gestore poi che deve fare delle scelte anche di tipo tattico, naturalmente. Per chi avesse però comprato, io è da tanto che non consiglio di comprare Bund, perché secondo me il capitale in qualche modo, almeno di facciata, deve essere remunerato, e non credo che la Germania, se mai dovesse esserci un fallimento dell'euro, ne uscirebbe bene. Quindi non c'è un posto sicuro all'esterno dell'Europa se nel caso di fallimento dell'euro, e tantomeno all'interno. Cominciamo a fare un po' di consulenza ai nostri ascoltatori, vi faccio fare il vostro lavoro, cominciando con Roberto da Modena, che è il nostro primo ascoltatore che si è messo in lizza appunto per intervenire. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno, dottoressa, saluto anche i suoi esperti. Grazie. La mia domanda è questa: io ho diviso i miei investimenti, i miei risparmi, in due modi. Cioè sono tutte obbligazioni, per cui però una parte sono della banca e scadono a un anno, e un'altra parte sono come certificati di deposito sempre della banca e scadono a quattro anni. Il rendimento è del circa il 2,60 lordo Allora adesso sentivo queste cose, siccome ho l'opportunità di disinvestire una parte senza penalità, cioè non prendere interessi ma di prendere il capitale, volevo sapere se in questo momento era conveniente fare una cosa del genere o no. Certo Roberto, naturalmente Saverio Scelso, adesso così ho già l'idea che comincerà a dire, insomma non è forse una diversificazione sufficiente perché è tutta molto concentrata sul settore obbligazionario, ma ammettendo che Roberto non voglia guardare oltre e lui dice insomma il mio giardinetto è questo, io mi sento tranquillo in questo modo, però certo il 2,60% con l'inflazione che quest'anno viaggerà, adesso non me lo ricordo qual è l'inflazione prevista, mi prendo i fogli, però forse su questi livelli, forse un po' di più, non è certamente un tasso di rendimento che protegge da questo, poi magari l'ascoltatore si può anche accontentare. Lei che cosa gli suggerirebbe di fare? Che questo ascoltatore Roberto non è così sereno, perché se no non avrebbe chiamato, quindi anche lui certe certezze evidentemente non le ha, e di conseguenza effettivamente ripeto quello che è stato detto prima, cioè diversificare significa ovviamente non mettere tutte le uova nello stesso paniere, e di conseguenza farei dei riferimenti appunto di maggiore diversificazione. Investire in un'unica banca, magari con un orizzonte temporale diverso, non significa esercitare una vera e propria diversificazione. Io credo, soprattutto oggi che si parla di rischi sistemici, si parla di tsunami che possono arrivare da un momento all'altro con delle variabili assolutamente impreviste, io credo che sia importante non diversificare soltanto in un'unica banca, ma neanche in un unico tipo di obbligazione di tipo bancario. E neanche a livello di nazione o di area geografica tipo euro, dollari eccetera, e quindi secondo me va in questo senso segnalato al cliente di pensare seriamente ad una certa diversificazione. Oltretutto, perché investire a 4 mesi piuttosto che a 2 anni? Che senso ha? Se i tassi salgono bisognerebbe essere investiti nel breve, se i tassi scendono dovremmo essere investiti nel lungo a parità di altre condizioni. È evidente che poi una persona deve fare delle riflessioni in relazione alle sue aspettative di spesa. Allora, tra l'altro stavo monitorando l'inflazione media attesa per il 2012 che è il 2,40%. C'è il mio assistente che mi stava segnalando l'ennesimo allarme lanciato dall'Associazione dei consumatori, che invece temono che il tasso di inflazione rischia di volare al 4-5% nel 2012, questo per l'ondata di rincari che ci arriveranno nei prossimi mesi. Chissà se questo dato dell'Istat, questa anticipazione, ha già preso in considerazione anche la raffica di rincari che arriveranno. Detto questo, per adesso atteniamoci a dati che abbiamo. Dottoressa Cerminara, ricordiamo un po' invece quello che è successo sul tesoro italiano. E il 12 gennaio appunto il Ministero dell'Economia ha collocato tutti gli 8 miliardi e mezzo di bot a 12 mesi e anche quelli a 6 mesi che aveva in programma, e anche qua abbiamo, ricordiamolo, notato tassi e rendimenti in vistoso ribasso, addirittura dimezzati rispetto alle aste di dicembre. Assolutamente, noi nel momento forse peggiore della nostra crisi abbiamo emesso appunto un bot annuale al 5,95, adesso nell'ultima asta siamo riusciti a mettere appunto lo stesso bot annuale, quindi con le stesse caratteristiche, al 2,73, che sui conti dello Stato fa decisamente la differenza, proprio per quello che dicevamo prima, chi ha comprato il bot in quell'asta lì si è aggiudicato un rendimento che fortunatamente per il momento è irripetibile, perché appunto ringraziando anche probabilmente da un lato le manovre che sono state fatte dal nostro nuovo Premier, hanno riportato, sicuramente peseranno sulle tasche degli italiani, però hanno riportato, quantomeno sono serviti a riportare un po' di fiducia sui mercati finanziari, quindi quello che viene tolto dalle tasche degli italiani in termini di nuove tasse aggiuntive, almeno chi ha investito o chi aveva o chi investirà in titoli di Stato, almeno ha su questo fronte un minimo di rientro in termini di tassi di interesse. Che quindi la curva è ridiventata più coerente, la curva dei rendimenti, però il BTP sul mercato secondario ancora quota il 6,5%. Saverio Scelso, Copernico Sim, per gli investitori che lei segue e che non vogliono abbandonare appunto il titolo di Stato, suggerisce lo stesso la diversificazione con i fondi di investimento? Comunque, che tipo di approccio ha suggerito nei confronti del titolo governativo italiano, anche quando ci sono stati momenti peggiori nei mesi passati? Di non cambiare strategia. Cioè la strategia che una persona fa, magari di medio e lungo termine, non deve essere cambiata da fattori diciamo emotivi di brevissimo. Quindi è estremamente importante che questa disciplina venga seguita, perché vale sia nel comparto azionario e anche nel comparto obbligazionario. Altrimenti uno pensa di uscire da una situazione che in realtà consolida delle perdite. Abbiamo visto, ecco, questa sì che è stata una sorpresa nei mesi passati, delle fortissime perdite in termini di patrimonio contabilizzato al mark to market dei titoli di Stato, soprattutto di lungo termine, e quindi non era il caso di cambiare strategia su queste notizie. Questo è stato il consiglio che fortemente abbiamo dato alla Copernico. Gianfranco da Pordenone, buongiorno. Buongiorno dottoressa Deborah e buongiorno al vostro illustre ospite. Volevo chiedere appunto al vostro esperto se concorda questa mia tesi, secondo la quale in un asset completamente obbligazionario è giusto investire una parte nei mercati emergenti in valuta locale, questo nell'ottica, come diceva prima il vostro esperto, di una sana diversificazione. Quindi fondi comuni logicamente che sfruttano anche il differenziale di cambio delle singole valute sottostanti nei confronti di questi paesi emergenti, che però sono emersi da tempo, nei confronti del dollaro. In quanto ritengo i mercati sviluppati, appunto boom tedeschi o altro, che non offrono grosse opportunità, salvo offrire condizioni più rischiose, l'abbiamo visto anche nel recente passato per certi paesi. Prima cosa. Seconda cosa, volevo fare una piccola osservazione alla vostra radio. Io sono 2 anni che l'ascolto continuamente, non ho fatto più interventi, però i miei clienti mi dicono che mentre una volta parlavate più spesso di investimenti, ora lo fate con meno frequenza, per cui approfittavo per... Lo so Gianfranco, guardi, ce lo scrivono in molti, è stata una scelta. Salvadanaio si occupa della finanza della famiglia, per cui dobbiamo prendere in considerazione tutto ciò che attiene alle scelte familiari in questo ambito. Con tutti i provvedimenti del governo presi negli ultimi tempi ci sono tante cose che interessano le persone, la casa, le tasse, i mutui, i prestiti e tanto altro ancora, però la ringrazio, magari terremo conto appunto di questo suggerimento che ci arriva non solo da lei ma da tanti altri ascoltatori, soprattutto dai professionisti. Questo peraltro mi gratifica anche molto, perché segno che evidentemente anche, non dico io, ma gli interlocutori che poi mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori sono assolutamente attendibili, autorevoli e molto ascoltati. Scelso, dopo che le ho fatto tutta questa così, questo assist, adesso deve rispondere. Rispondo volentieri a Gianfranco, che oltretutto è anche un mio corregionale, perché come sapete la nostra è una simbiudine, quindi... Ecco, no, non lo sapevano gli ascoltatori, ma adesso lo sanno. Bene, l'ho detto. No, tra l'altro che sono anche molto contenta, perché Scelso stamattina era a Milano casualmente, sì, ma sì, so no, che lei molto volentieri si fa anche questo giro per venire qua. Allora dicevo pensavo questo: mai giudicare un'azione se prima non se ne conoscono gli obiettivi. Se l'obiettivo del risparmiatore è quello di essere tutelato e quindi di comprare delle obbligazioni, nel senso che non vuole avere eccessivi rischi, ebbene allora che questi investimenti vengano fatti, perché ovviamente la diversificazione ha una sua valenza, però magari tutelandosi dal rischio cambio, perché già è insito un certo rischio nell'investimento relativamente appunto a chi ha emesso la carta, cioè a chi ha emesso l'obbligazione. I mercati emergenti spesso hanno anche una valuta non sempre convertibile, o comunque un livello di trasparenza non così efficiente come vorremmo, per la verità, avere in Europa o negli Stati Uniti, e anche qui qualche volta corse carenze ci sono, come abbiamo visto, però lì è ancora più problematico essere investiti in investimenti appunto trasparenti. E quindi il mio consiglio è certamente investire nei paesi emergenti, una parte magari anche non così insignificante dell'investimento, altrimenti qualsiasi valenza in termini di diversificazione di rendimento non esiste. esiste, però magari hedgeare, cioè in qualche modo assicurare il rischio cambio. Questo, questo è un consiglio che mi sento. Ha una visione molto diversa rispetto a tante altre persone che ascolto abitualmente, che invece suggeriscono, proprio per poter conferire maggiore respiro al portafoglio in termini di possibilità di extra rendimento, appunto proprio di assumersi invece il rischio del cambio. Lei è più prudente. Io rischio l'extra rendimento lo vado a cercare nel settore azionario, non nel settore obbligazionario. Se una persona decide di investire nelle obbligazioni, vuol dire che in qualche modo vuole una certa tutela dal suo investimento. Poi abbiamo visto, non sempre così, però almeno credo, tantissimi anni che faccio questo mestiere, e credo di poter dire come sensazione che il risparmiatore che investe nell'obbligazionario non cerca l'extra rendimento, cerca soprattutto la tutela e la garanzia dell'investimento in sé, cioè della remunerazione minima del capitale, ma non certo un extra rendimento. Se una persona vuole un extra rendimento, bene, che se lo vada a cercare dove c'è potenzialmente, cioè nel mercato azionario. Posso sentire Francesca Cerminara che cosa ne pensa rispetto a questa visione Zenith SGR? Esatto, io ho una visione leggermente diversa, nel senso che è vero che forse l'investitore retail, quando approccia il mercato obbligazionario, crede di investire in un mercato safe che possa apportare il mantenimento del capitale più qualcosina, diciamo, che remuneri l'inflazione. Proprio però quest'anno, l'anno appena trascorso, ha dimostrato che non è sempre così safe, cioè ogni tanto bisogna anche ripensare al grado di rischio degli investimenti e degli strumenti che si utilizzano. Quindi anche l'Europa, che sembrava l'investimento più sicuro di questo mondo, ha dimostrato che degli scossoni li può avere. Quindi secondo me è giusto anche investire in obbligazioni, e noi lo facciamo, emergenti, a rischio scoperto, quindi assumendosi il rischio, purché si abbia la consapevolezza che non è un investimento privo di rischio, quindi non è come comprare lo Schatz o il Bund, è come comprare un titolo obbligazionario a elevato rischio. Perché è obbligazionario, non ha rischio. Per tradurre per i nostri ascoltatori, lo Schatz è il titolo tedesco a breve scadenza, il Bund invece è il decennale. Ho sintetizzato proprio in 3 secondi. Io ho 40 secondi di tempo, poi devo salutare. Fabio da Roma voleva chiedere perché non si parla mai del BTP dello Stato a 30 anni. Dottoressa Cerminara, quanto rende in questo momento il trentennale italiano? Il trentennale, da ultima valorizzazione, adesso vi dico il rendimento, al volo, guardiamo, cerca, subito al volo, al terminale, sì, infatti. Al terminale, secondo me non si parla, è un ottimo strumento, secondo me, però è più illiquido, comunque adesso rende il 5,60 da ultima valorizzazione, è un pochino più illiquido proprio perché è detenuto quasi esclusivamente da investitori rende meno del decennale, che è al 6,5 ancora. Benissimo, devo salutarvi, grazie a Francesca Cerminara, Saverio Scelso, per essere stato con noi. Scelso, grazie, visto che si diverte così tanto, quando passa a Milano ci avvisi, che così va bene, la rinvito di nuovo. Grazie. Noi ci sentiamo lunedì, buon fine settimana a tutti.